Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Tremonti lascia l'Ecofin prima della fine dei lavori. Vado a chiudere il bilancio dello Stato, dice, e Piazza Affari recupera le perdite. Titoli pubblici sotto i 330 punti, lo spread sui BTP vola, invece il rendimento dei bot. Il cordoglio di Napolitano per il militare morto in Afghanistan. Calcio mercato, l'Udinese ufficializza Sanchez al Barcellona per 40 milioni di euro, Zapata al Villarreal. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura dunque restiamo sulla situazione economica italiana. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti, lasciando l'Ecofin prima della fine dei lavori, ha detto: vado a chiudere il bilancio dello Stato, parole che hanno in qualche modo anche risollevato l'andamento della giornata su Piazza Affari, che era partita con il piede negativo della borsa. Parleremo tra un attimo, facciamo il punto sul calendario della manovra con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Tempi brevi dunque per l'iter parlamentare della manovra economica. Il decreto sarà approvato entro giovedì a Palazzo Madama. Ha fatto sapere questa mattina il presidente del Senato Schifani. Obiettivo bipartisan è quello di chiudere la partita entro domenica, poi alla Camera. Dare così un segnale immediato di compattezza ai mercati e scoraggiare nuove spinte ribassiste sull'economia del nostro paese. Un calendario, quello parlamentare, che è stato smontato e rimontato nel giro di poche ore. I dettagli si avranno nel pomeriggio con l'arrivo nella capitale del ministro Tremonti. Restano in calendario le audizioni sulla manovra. Ieri è stato il turno delle parti sociali, domani sarà la volta della Banca d'Italia. I tempi ristretti per la conversione del decreto comprimono di fatto le possibili modifiche alla manovra. Si dovrebbe riuscire a saldi invariati ad allentare il blocco della rivalutazione delle pensioni, così come dovrebbero essere anticipate alcune misure oggi previste per il biennio 2013-2014. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. D'accordo sulla necessità di stringere i tempi per l'approvazione della manovra e anche l'opposizione e i mercati guardano anche alla politica. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, tutti d'accordo per accelerare i tempi della manovra. Nel pomeriggio Giulio Tremonti incontrerà le opposizioni, lo rivela il capogruppo Anna Finocchiaro, e si discuterà proprio degli emendamenti e delle opposizioni al decreto. Da parte del Partito Democratico Enrico Letta chiede un confronto nelle sedi istituzionali, vale a dire in Senato, affinché tutto avvenga alla luce del sole. Un altro passo in avanti rispetto a ieri, quando lo stesso Letta e il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini hanno raggiunto un accordo per emendamenti comuni. Il terzo polo è convinto che la situazione sia drammatica e che bisogna approvare la manovra al più presto. Resta però la richiesta del Partito Democratico che il governo si dimetta all'indomani dell'approvazione del decreto. Dal punto di vista dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro promette nessun ostruzionismo, perché dobbiamo dare regole certe ai mercati internazionali, ma questa è una manovra iniqua e ingiusta per le classi sociali più deboli e quindi voteremo contro. Per il PDL invece è giusto che la manovra venga approvata velocemente. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. E intanto le borse, come dicevamo, tirano il fiato, in particolare Piazza Affari, mentre restano nel mirino i rendimenti dei titoli pubblici, del debito pubblico italiano, intendevamo naturalmente. Facciamo il punto con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, si è visto di tutto questa mattina sui mercati azionari. Allora, cominciamo intanto con l'Europa, con il dire che tutta quanta negativa, e oggi curiosamente si contraddistingue Piazza Affari, che perde lo 0,56% sul FTSE MIB, ma in avvio perdeva il 2%, nel giro di mezz'ora è arrivata a perdere quasi 4,5 punti, per poi virare improvvisamente in maniera molto repentina in territorio addirittura positivo, è stato toccato poco fa per girare adesso ancora in rosso, ma tutto sommato oggi le perdite che abbiamo visto tra venerdì e ieri non si vedono, o quantomeno sono state nettamente ridimensionate. Recuperano in maniera molto vistosa i titoli del settore bancario, letteralmente tracollati negli ultimi giorni, e abbiamo Azimut in rialzo del 3,68%, Ubibanca più 2,36%, molto curiosa la giornata che si è vista su Unicredit. Il titolo perdeva 7,5 punti in avvio di giornata, alle 9,08 è stato sospeso a lungo per ovviamente eccesso di ribasso, poi ha recuperato, adesso fa più 2,25, quindi complessivamente ha avuto un progresso del 10% nel giro di due ore, quindi questo vi dà l'idea della volatilità che sta imperversando sulla borsa italiana. Un'altra cosa da segnalare è che Parigi è in calo ancora del 2,36%, questa è la performance che risultava alle 9,57, quando per problemi tecnici la borsa francese appunto si è fermata e tutto il circuito Euronext ad essere appunto fermo per problemi tecnici. Francoforte perde il 2%, Londra meno 1,54, netto il recupero anche dell'euro che sul dollaro ha ritoccato 1,39. I titoli di Stato, dicevate, c'è stato stamattina un nuovo massimo storico, l'ennesimo, per il differenziale di rendimento dei titoli decennali italiani rispetto ai tedeschi. Lo spread ha raggiunto i 330 punti base per poi fare una piccola marcia indietro a 328. L'asta di bot annuali, l'asta molto attesa di questa mattina da 6.750 milioni di euro, ha avuto successo, ma il mercato ha chiesto rendimenti per il 3,67%, dal 2,14 precedente siamo ai massimi dalle 2008. Questa è la situazione, Alessio. Grazie Deborah. E come possono difendersi in questa situazione i risparmiatori? Ne abbiamo parlato a lungo anche proprio con Deborah Rosciani nel Salva Danai. Allora sentiamo invece qualche consiglio in pillole. Primo consiglio ai risparmiatori: non vendere ai minimi, acquistare poco e soprattutto con prudenza. Questo suggeriscono i gestori nei momenti di turbolenza quali quelli che stiamo assistendo. Secondo consiglio: diversificare gli investimenti per prodotto, area geografica, meglio anche se valutariamente diversi. Terzo suggerimento: puntare su azioni di titoli anticiclici come l'alimentare, l'energia. Se quando andiamo alla pompa di benzina ci lamentiamo del caro carburante, dobbiamo ricordarci che la società petrolifera incassa di più e probabilmente ripagherà in ricchi dividendi i suoi azionisti. Cautela in questo momento sui finanziari. Altra misura suggerita: entrare nella logica degli investitori internazionali. Se i titoli italiani sono sotto attacco, potrebbe essere interessante acquistarle. Si farebbe un bene al paese, perché aumenta la domanda e quindi calano i rendimenti, ma si otterranno probabilmente tassi di interesse più interessanti delle aste precedenti, a condizione però di non avere bisogno del capitale fino alla scadenza, perché altrimenti si rischierebbe di vendere al mercato secondario dei titoli di Stato a prezzi scontati. Nel dubbio, ultimo suggerimento, restare liquidi in attesa di tempi migliori. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ultima pagina, andiamo all'estero. Si chiamava Roberto Marchini, aveva 28 anni, il militare italiano morto oggi in Afghanistan. Era un ingegnere paracadutista dell'ottavo reggimento guastatori di Legnago ed era residente a Caprarola, in provincia di Viterbo. Marchini era impegnato in una attività di ricognizione nel distretto di Bacqua, lo stesso nel quale lo scorso 2 luglio un altro ordigno aveva ucciso il caporal maggiore scelto Gaetano Tuccillo. Paolo Piacenza ha sentito il maggiore Marco Amoriello, portavoce della missione militare italiana in Afghanistan. E questa mattina i nostri militari stavano svolgendo un'attività di ricognizione insieme ai colleghi afghani, ricognizione in una zona dove dovrà essere costruita un'ulteriore nuova caserma afghana, appunto per aumentare e incrementare la sicurezza in questa zona dove evidentemente ancora c'è bisogno di fare qualche cosa. Durante questa attività di ricognizione i nostri soldati hanno individuato lungo la strada 3 ordigni, per cui si sono fermati, sono scesi, hanno attuato tutte le procedure di sicurezza ed emergenza che sono previste appunto in questi casi per fare sia i controlli di quello che avevano trovato e per eventualmente studiare anche un possibile itinerario alternativo. Durante questa attività è esploso un quarto ordigno che ha coinvolto il nostro paracadutista. Ecco, quindi era un ordigno precedentemente non individuato. Questo è allo studio, adesso stanno verificando se è esploso per via di una pressione o se è stato attivato con un telecomando, le ipotesi chiaramente possono essere molte. Ed è importante per noi studiarle appunto per verificare e per capire esattamente che cosa è successo e per attuare tutte le procedure poi anche per il futuro. E sul fronte politico l'Italia dei Valori chiede una riflessione sulla presenza italiana in Afghanistan, mentre la maggioranza è divisa tra chi, come il leghista Zaia, chiede di finire l'inutile strage e il ministro degli esteri Frattini, che invece ribadisce l'impegno dell'Italia nel paese. E sempre in Afghanistan restiamo, perché il fratello del presidente Hamid Wali Karzai, è stato ucciso da una delle sue guardie del corpo mentre si trovava nella sua casa a Kandahar. I talebani hanno rivendicato questo omicidio. La vittima è uno degli uomini più potenti nel sud dell'Afghanistan, un ritratto da Kabul di Enrico Piovesana, inviato di E il Mensile. Hamid Wali Karzai è considerato l'uomo forte della provincia di Kandahar, innanzitutto per le sue connessioni con il narcotraffico nel sud del paese, in quanto grazie alla sua posizione di fratello del presidente e di presidente della provincia di Kandahar, grazie al fatto di poter contare su centinaia e centinaia di uomini di milizie private, poteva intercettare che circolano abbondanti nel sud dell'Afghanistan, sequestrarli e poi in realtà immetterli sul mercato, e questo lo aveva fatto diventare uno dei maggiori e più importanti trafficanti, narcotrafficanti di tutto il paese. Non solo, le altre connessioni importanti che aveva, che sono state svelate dal New York Times circa 2 anni fa, erano quelle con la CIA, e quindi le sue milizie avevano una certa ufficialità, sicuramente sono una base, costituiscono ancora, nonostante la morte di Walid Karzai, una base di potere autonomo molto forte, teoricamente sostenuta e finanziata dagli Stati Uniti, dalla Cina in particolare, che però ha posto gravi problemi di governabilità di quella provincia. Infatti uno dei principali dubbi sulle ultime operazioni di pacificazione fatte dagli americani nella provincia di Kandahar era proprio attribuito a queste forze che rispondevano a Walid Karzai, considerate da tutti molto poco affidabili. Così dunque la situazione in Afghanistan. Adesso rientriamo in Italia per parlare degli sviluppi dell'inchiesta sulla P4 e anche di quella sulla Guardia di Finanza e sul braccio destro di Tremonti milanese. Individuare le talpe nella Guardia di Finanza che avrebbero fornito informazioni riservate a Marco Milanese puntano anche a questo le indagini della Procura di Napoli, che ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire i tabulati di 2 utenze telefoniche del deputato del PDL accusato di aver pilotato nomine e promesso appalti in cambio di denaro e beni di lusso. Sull'ex consulente politico di Tremonti pende una richiesta di arresto che sarà valutata dalla stessa Giunta. Relatore del caso era il leghista Paolini, che però stamattina per motivi di opportunità ha deciso di rinunciare all'incarico. Il Tribunale del Riesame intanto oggi deciderà sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Luigi Bisignani, il faccendiere coinvolto nell'inchiesta napoletana sulla cosiddetta P4. Domani invece toccherà, sempre alla Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, pronunciarsi sulla richiesta di arresto nei confronti di Alfonso Papa, il parlamentare del PDL, ex magistrato coinvolto anche lui nell'inchiesta sulla P4. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Era una buona notizia perché riparte l'industria cartaria e cresce la raccolta differenziata di carta e cartone nel nostro paese. Sono dati in buona misura confortanti quelli appunto presentati oggi nel rapporto annuale Comieco, ma restano alcune difficoltà difficili da superare. Laura Bettini ha raggiunto il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. Certamente per quanto riguarda la produzione industriale un 7% in più è un segnale molto incoraggiante, non siamo certo tornati ai livelli del 2008, però è stato importante. Così come interessante è l'incremento del 2% della raccolta differenziata, rimane il grosso cono d'ombra che riguarda il meridione ed è lì che dobbiamo fare tutti assieme lo sforzo maggiore. Eh sì, perché al nord l'aumento è del 3%, al centro dello 0,8% e al sud soltanto dello 0,1%. Cosa c'è che non va? Intanto per cominciare la comunità meridionale sono assolutamente disponibili e pronti a fare una buona raccolta, dipende dal servizio che offrono i comuni. Parliamo ora di calcio, arriva la parola fine sul tormentone del calciomercato estivo targato Sanchez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo online AS, il fantasista cileno dell'Udinese giocherà le prossime 5 stagioni nel Barcellona. Accordo raggiunto per 40 milioni di euro e va in Spagna anche Cristian Zapata al Villarreal, l'altro giocatore, il difensore colombiano sempre dell'Udinese. Allora facciamo il punto sul calciomercato che ha visto nelle ultime ore anche il Napoli in primo piano. È un De Laurentiis decisamente su di giri, quello che saluta l'arrivo a Napoli da Udine di Golcan Inler, lo svizzero che ora diventerà il faro del centrocampo partenopeo. Il modulo di Mazzarri tattizza? È importante che tutti danno il massimo in campo. Quindi è molto importante un grande spogliatoio. Questo sempre. Difficile dar torto al presidentissimo, che pure va in fuorigioco quando offende un giornalista reo di aver solo ipotizzato la cessione di uno dei big Cavani, Lavezzi e Hamsik. S'attende ora la risposta del Milan campione d'Italia, che si raduna oggi a Milanello. Sul mercato dei rossoneri che sognano Fabregas potrebbe pesare la sentenza sul Lodo Mondadori. Dovrebbe essere lo stesso Berlusconi oggi a far chiarezza sulle strategie future. In casa Inter si sfoglia la margherita sul futuro di Schneider, tentato dal Manchester United che insidia anche Agüero da mesi nel mirino della Juve. Ma Marotta prepara il doppio colpo, Pepito Rossi dal Villarreal e Poli dalla Sampdoria, giovani affamati di successi come la nuova Juventus targata Conte. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia vi salutano, vi lasciamo all'Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.